Pronto? Tony, sì sì. Torino. Marino. Marino. Ciao Claudio, buonasera. Io ciao, buonasera. L'amico che è 27, passa, cioè l'amico che è in PMR, passa il 27. Perché tanto il 27 mi senti male, quindi in PMR mi senti bene. Ma poi te l'abbiamo detto che si è messo a posto, Antonio, ma sei stravagante tu. No, non mi ha detto niente la verità, perché quando mi ha detto così ho preso e ho aspetto le baracchine sulla 27, quindi a un certo punto me ne vado in PMR. Scusa, se esco male lì, esco male anche qui, discorso è quello. Ti abbiamo detto che poi ti sei messo a posto, inizialmente stai uscendo malissimo. La prossima volta quando stai uscendo male non ti dico niente, così esci come ti pare, ti piace, va bene? Non è così comunque. Vabbè. Continua a te a parlare tranquillamente, non ti preoccupare, fregati. Vabbè, fai come vuoi allora, cosa vuoi che ti dica? C'è qualcuno qua? Avanti, chi è? Buonasera. Ciao Natali, buonasera. Tanto so che non mi rispondi Natali, quindi io ti richiami. Ci sono io, se vuoi rispondere bene, se no te la piglio in culo. Ola, ola, ola, ola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ola, ola, ola, ola. Chi è? Buonasera, chi è lì? Sono Giorgio, chi sei tu? Sì, Giorgio, sì. Giorgio di Pirri? Sì. Giorgio di Pirri? Certo che stai arrivando bene. Se non ti taglio la parabola a Seghetto. Non ti capisco bene, no? Ho detto che già ti sento bene, Natali. Cappa. Ma Antonello sì. Eia. Ecco, io sono un ricevitore Uniden, come quello di Marcolino, di quelli da base. Però non so come un macello, perché stasera non ce n'è per scrivere la frequenza. Quello devi dirlo a Marco. Devi fare la programmazione per lui, lo sai più di me. Se c'è quel ricevitore ci vuole il dischetto e chiama lui, non c'è problema. No, non ce ne vuole dischetto, perché questo qui l'ho preso nuovo e non c'è niente per mettere il dischetto, capito? E allora come cazzo fai a programmarlo? A mano lo programmi? Non lo so come vuole programmato, capito? È un macello. Chiedi a Marco, già è a casa, non ti preoccupare. Chiamalo al telefono, glielo chiedi. Così me lo, se c'è a farlo per via di computer, per dire, lo programmi, sei a posto. Telefono, vedere. Tanto a casa, al baracchino sulla 27, sul 10. Vabbè, ma io non posso più. Natalia, arrivi anche qua comunque. Ciao Antonio, arrivi anche qua, che stamattina no, poi non abbiamo fatto la prova, ok? Anche io ti sento benissimo, Cla. Sto benissimo. Va bene, dai, che sono sul 10. A dopo, tratta lì. Ciao Antonio. Ciao Cla, non c'è problema. Chiama Coso, che è sul 10. Così ti sa dire qualcosa in più, dai. Me lo sai come programmarlo, la roba leggera, fai prima, se no esci di testa. Con questo esci di testa, sì. Ascolta, io quell'apparecchio monovato che c'avevo io, uguale al tuo, gli ho messo gli ho eliminato la modifica del 7 watt, 10 watt, quelli che sono, e col microfono amplificato esce bene. Col DM1000, quindi aggancia di quello, si è a posto, esce perfetto. Sì, capa, me lo volevo mettere in macchina, quello lì, però è il DM1000. poi già si busa di 2000, già ce ne sono in giro in vendita a poco prezzo, non ti preoccupare, fregatele. Vabbè, dai, adesso telefono a Marco. E magari ce l'ha anche lui uno, cosa ne so? Adesso chiama Marco, poi vedi un po' con lui, dai, già sono qua all'ascolto. Ciao Natalino! Chi è che mi chiama? Ciao Natale! E chi è che mi chiama? Giulio! Arrivi, spezza il tasto. Antonè, chi è questo che mi stava chiamando? Non mi senti, ma ci mette! Giulio, che lo senti spezzettato. Vabbè, vuol dire scaricare la batteria. Natali, ti saluto e chiudo. Sono il 27. Non lo ricevo bene, no, Antonè. Cos'è che ha detto? Ha detto che ti saluto e chiudo, che è solamente il 27 lui. Per il momento. Sì, cappa, grazie. Saluto. Cioè, dopo l'alternata e si è spezzettato anche tu, visto? Vai. A volte le cose si... Ma ci sei anche tu, quindi... Comunque già ci sente, ti ho fatto la ponte io, quindi tranquillo. Va bene, Natalino, non c'è problema. Quando vuoi, chiama. Sono qua all'ascolto. Ehi, ciao. Non c'è problema. Pompunio! Ti sei offeso, Pompunio? Dimmi. Come sei scappato da baracchino? Cazzo, se ti dico una cosa del genere, prima attacca un alimentatore, poi attacchi l'altro, e sei uguale, a un certo punto se me l'ha presa per il culo, scusa, Ma preso e ho mandato a far culo a tutti e sono andato a mettere qua in PMF. Cosa devo dire secondo te? Ma comunque non stavi arrivando bene, se tu arrivi sempre bene, bello amplificato, non stavi arrivando bene, Antonio, è utile che ti incassi. Se mi dico che esco male, cerco di risolverlo, poi se per te stessi bene perché ti ho avuto la cosa. Ma siccome mi sono stato ascoltato, il discorso è quello. Mi ha detto che la metà del caffè c'aveva problemi il primo. Ho preso quello lì e ci ho messo direttamente l'altro, quello che sto usando adesso, in questo momento. Quello cinese, l'ho agganciato il baracchino normale, cazzo, non può essere, scusami. Due cose, non è una coincidenza. Uno potrebbe essere magari l'alimentatore del cazzo, magari sta andando male, quello che è vecchio, che esco con la tannata, ma non puoi dirmi che esco anche con quello cinese con la tannata, non esiste, capito? Quindi a un certo punto cosa mi sono incazzato, ho avuto anche ragione, perché in PMR, grazie a Dio, esco bene. E anche in 27 con questo con questo alimentatore qui. Perché sto usando l'alimentatore degli AESU, l'857D, figurati tu, se esce bene qui, esce bene anche il 27, no? Scusami. Se vuol dire non ci sono arrivati bene bene bene, poi forse perché c'ho l'antenna messa male, non lo so. Gli altri li ascolto bene, Giulio arriva bene, Claudio arriva bene, Gianfranco arriva bene, tu hai un bel basso in radio anche. Ma io c'ho l'alimentatore normale, lo sai che l'857D c'ho l'alimentatore originale, non posso avere un microfono amplificato, scusami. Sto usando l'857D, non sto usando un FM500S o cosa, o un Kenwood, sto usando l'857D, e c'è il microfono normale suo, originale. Ho capito. Cosa vuoi ti dica? Non lo so. Sei scappato così senza... vabbè. Non ti devi offendere. Fare le prove. Mi c'è anche Claudio che è vicino a te. Poi vedi tu, Claudio invece ti va bene, va bene. Che è entrato dopo, la verità. Non è che tanto prima, è entrato dopo. Quindi, non puoi dirmi una cosa del genere. Sì, vabbè, non offenderti, fregatene. Sì, a un certo punto, cioè... Uno ti dice una cosa, uno ti dice l'altra, a un certo punto va a far culo, figlio, e ci mando, già lo sai anche tu, la faresti anche tu al posto mio, quindi. Sì, vabbè, non te la prendere, fregatene. Vabbè, adesso vedremo, non lo so. Noi va bene adesso di parlare qua in PMR, sono parecchio lento, quindi. mi piace resumarla, la frequenza. Non lo so, sei uscito sempre bene. Da me eri molto basso. Stavi parlando, più parlavi più si abbassava la radio, o ti allontanavi dal microfono, cosa ne so, Guarda che sto usando l'857D mi adesso, non sto usando un cosomi di quei cicafusi Baofeng, sto usando l'857D, quindi immaginati tu. Se sei così in FM, se sei così anche in AM, ma laterale eccetera eccetera, quindi non c'è nessun problema. Adesso stai arrivando bene, qua arrivi benissimo, ti ascolto bene. Cosa dirti? Non so cosa dirti. Era appunto per quello che sto dicendo. Ho agganciato quell'apparato là, anzi l'apparato, l'antenna che è staccato dall'87 all'857D, figurati tu. Aspetta un attimo, arrivo subito. E io, ok, io sono qua. Prova segnale. Alza il braccio se mi senti. Hola. Hola. Ciucu. Ebbè, ciucu. Sto male, sei tornato. Sì. Io ti sento tratteggiato, eh. A momento non ti capisco. Perché sto camminando, Caruccio. Sono in fronte a lui. Comunque anche tu arrivi tratteggiato, tanto lei. Capito, Gemari, sto salendo dallo spirito di cazzata. Io sono con un gombino mio, Antonè. Proprio affacciato sulla ringhiera. Sono affacciato così e ti sento tratteggiato. Lo so che sei a piedi, dai. È per quello che ti sento tratteggiato. Però te lo sto dicendo. Sono con un gombino anch'io e sono davanti alla fermata del tram. Dicono che è così. Adesso non ti ho capito, adesso non ti ho capito niente. Sì, alla fermata di Evo. Non arrivi al torneo, non arrivi, la portante arriva, due di Santiago e basta. Ho detto che sono di fronte allo spi, quello che c'è vicino a casa mia. Non ti sento, no, Antonello, non ti sento. Arriva la portante, ma la radio no, Figurati, così male sto uscendo. Forse perché sono gorgomino, Antonello, dai. È per quello che ci sento male. Anche se sento a pezzi, vabbè, ma non è niente quello, tutti dimmi. Io ti sento bene, no? Vediamo se... Niente da fare, no, niente. Adesso ti ho sentito perfettamente. È arrivato a casa tua piano, va bene a piedi. E adesso ti ho sentito bene. Ok, Antonio, d'accordo, dai, ci sentiamo più tardi. Ok, ciao. Bau.